I already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔。 Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. Well, what really went wrong is that Questo è Michael Moore, il noto autore cinematografico, che parla, dice: quello che è andato male con la General Motors è che la sua filosofia fin dall'inizio è stato che ciò che va bene per la General Motors va bene per il paese. Noi costruiamo, voi comprate, anzi ve lo diciamo noi cosa comprare, voi limitatevi a comprare. Poi il consumatore è diventato più esperto, ha cominciato a dire: voglio macchine che consumino meno, che siano più sicure, ha cominciato a comprare altre macchine, e la General Motors non ha cambiato, ha continuato a produrre le macchine sbagliate, la gente ha smesso di comprarle. Part of the market share that there probably was a point of no return. Now here we are with this complete collapse, on the verge of this collapse. And if General Motors collapses, then there goes hundreds of thousands of jobs, if not millions of jobs, the ripple effect of this. E naturalmente sono spariti, conclude Michael Moore, centinaia di migliaia, forse milioni di posti di lavoro sono spariti, sono sull'orlo dello sparire. E una volta tanto, devo dire, raramente ci troviamo d'accordo con l'autore di Bowling in Columbine e di Fahrenheit 451, ma questa volta sì, Fahrenheit 11 settembre in realtà, ma questa volta sì, perché la visione così piuttosto pragmatica del rapporto tra le tre sorelle, no, di Detroit, dell'industria automobilistica, e il pubblico americano è condivisibile, e peraltro è condivisa da tanti degli osservatori che la stanno analizzando. Nel frattempo arriva l'annuncio che Nancy Pelosi chiede insistentemente altri soldi per l'industria automobilistica, ne sono stati già stanziati 25 dei 700 miliardi, no, che lo Stato americano ha messo a disposizione del tentativo di riassestare l'economia americana sotto attacco. Ma esce fuori nello stesso giorno uno scandalo, almeno perlomeno per le cifre che tira in ballo, che riguarda gli aerei privati usati dai manager, dai grandi capi delle industrie automobilistiche. Avrebbero ormai un costo di utilizzo pari a $4,000 l'ora. Pensate che solo la Ford ne ha 8 che vanno instancabilmente su e giù per la nazione. Fatevi un po' di moltiplicazioni, e non a caso adesso c'è più di un uomo politico americano che alza il ditino e dice: ma tanto per cominciare, questi signori di General Motors, Ford e Chrysler non potrebbero prendere gli aerei di linea come fanno tutti gli altri? Sono le stranezze di una fase di transizione che vi stiamo da qualche giorno descrivendo, perché è interessante, è rivelatrice, ma è anche carica di strane contraddizioni, di personaggi che si muovono secondo dinamiche che non sono quelle che siamo abituati a seguire. Uno per tutti, un bell'articolo uscito oggi sul Washington Post a firma di Michael Lee, racconta del ritorno al Senato americano di John McCain, lo sconfitto, l'onorevole sconfitto, il gentiluomo sconfitto, ma pur sempre lo sconfitto della campagna elettorale 2008. E l'articolo è anche intriso così di un umorismo abbastanza amaro. Dice che John McCain è ricercatissimo in questi giorni, riceve messaggi da amici, conoscenti, colleghi politici da tutti gli angoli del paese, essenzialmente per un motivo: gli chiedono i biglietti grazie ai quali, ricercatissimi biglietti grazie ai quali, il 20 gennaio si potrà partecipare, essere lì in prima fila, farsi riprendere dalle telecamere mentre Barack Obama diventerà ufficialmente presidente degli Stati Uniti. Povero McCain. McCain avrebbe meritato qualche lettera di congratulazioni e di solidarietà in più piuttosto che richieste di biglietti. Nel frattempo continua ad assestarsi la squadra di governo di Barack Obama, arrivano nuovi nomi, tante ormai sono le biografie da leggere, le documentazioni di cui prendere visione, per esempio quella di Janet Napolitano, una stimata politica americana che peraltro in corso di elezioni di primaria più riprese era stata citata come possibile componente di ticket, insomma una donna della politica americana che conta forse appena un filo meno di Hillary Clinton. Ebbene, sembrerebbe quasi certa la sua nomina al vertice del Ministero per la Sicurezza Interna, quella che si occupa di fare in modo che soprattutto in America si possa vivere il più tranquilli, sereni e sicuri possibili, al riparo ad esempio da attacchi terroristici. Janet Napolitano ha 50 anni, nel 2006 è stata eletta per un secondo mandato come governatrice dell'Arizona, ovvero lo stato proprio di John McCain, così aggiungendo anche un certo senso una piccola beffa alla sconfitta di McCain. L'Arizona era stata anche procuratore generale, oltre che a procuratore generale degli Stati Uniti, prima donna in entrambe queste cariche. Era stato molto apprezzato nel 2004 il suo intervento alla convention presidenziale, la stessa convention di Boston, dove Barack Obama in un certo senso si rivelò, se non al mondo, almeno all'America. Nel 2006 divenne la prima governatrice a guidare l'associazione dei governatori. E già Janet Napolitano comunque è in politica da un sacco di tempo, la ricordiamo già in epoca Clinton, più volte salita alla ribalta a livello nazionale, soprattutto quando divenne avvocato in un noto processo per molestie sessuali che vedeva imputato una giudice della Corte Suprema. Un altro nome confermato, anche perché in questo caso c'è anche una accettazione, è quella di Tom Daschle, che diventerà il titolare del Ministero della Sanità per l'amministrazione Obama. Daschle ha 60 anni, è un veterano della politica di Washington, ha fatto diversi mandati sia al Congresso, 4 e 3 al Senato, è stato speaker dei democratici, ovvero rappresentante di punta, rappresentante dei democratici, è noto per le sue doti di conciliatore, sa però sfoderare grinta, è un politico insomma consumato che sa adattarsi alle situazioni. E essere stato scelto da Obama per Daschle è un po' un ritorno sulla ribalta politica dopo una sconfitta però piuttosto dura che lo aveva lasciato fuori 4 anni fa dal Senato. Daschle ha passato tra l'altro allo staff di Obama molti consiglieri, sostenitori, finanziatori che arrivano dalla sua cerchia, non da ultimo lo stesso John Podesta, che è l'attuale capo della transizione di Obama, che dopo aver fatto parte dello staff di Bill Clinton anche con Tom Daschle aveva avuto una lunga collaborazione. Quindi siamo sempre lì, c'è molto clintonianesimo nell'Obama che va a prendere la Casa Bianca, e c'è anche un discreto spessore di esperienza, se personaggi sicuramente non nuovi ma comunque affidabili come Daschle e Napolitano entrano a far parte della squadra di governo. E infine ancora invece qualche, si dice anzi una conferma anche se questa prevedibile ma sicuramente confortante per coloro che hanno ammirato soprattutto il modo in cui, in presenza sicuramente di formidabili potenzialità politiche, però Obama ha anche strategicamente ottimizzato la sua vittoria. Ebbene, lo stratega, il capo stratega della sua campagna elettorale, che si chiama David Axelrod, più volte lo abbiamo citato con malcelata ammirazione, perché è uno che sa come si vince, conosce i segreti della politica contemporanea, e per quello che posso dire di aver osservato in prima persona e letto, sa anche come si vince con decenza, e questo, se permettete, tanto più di questi tempi, pensiamo anche alle parti nostre, insomma è un risultato molto apprezzabile. Ebbene, David Axelrod è diventato consigliere del presidente, insomma sarà sempre lì a un palmo dalla scrivania di Barack Obama nei momenti difficili, a indirizzarlo nella direzione che gli sembra migliore. E al tempo stesso Gregory Craig, ex alto funzionario del Dipartimento di Stato durante l'amministrazione Clinton, e vedete quanto spesso torni questo nome, chi pensava che Clinton uscissero dalla scena politica americana con la sconfitta di Hillary si sbagliava di grosso. Bene, Gregory Craig sarà l'avvocato della Casa Bianca. E infine, mentre parecchie voci parlano di questo blitz di mezzanotte, insomma del fatto che George W. Bush si accinga a mettere molte firme sotto molti provvedimenti prima dell'insediamento di Barack Obama, ma su questo sono più le indiscrezioni che per ora le realtà di fatto, e del resto non sarebbe certo un costume che comincia con George W. Bush. Bisogna ancora dire qualcosa sulla questione Clinton, perché Bill Clinton avrebbe aperto per aiutare la moglie Hillary a diventare segretario di Stato, avrebbe aperto agli avvocati del team di transizione di Obama i propri libri finanziari, soprattutto quelli della sua fondazione. Lo scrive il Wall Street Journal, che scrive anche che Clinton si è detto pronto a rinunciare alla gestione quotidiana della fondazione e ai guadagni provenienti dall'estero se Hillary diventerà Condi Rice, in un certo senso, e quindi se il suo lavoro principale sarà appunto avere rapporti con altre nazioni e con i portafogli di queste nazioni. Ci sono molti passi avanti nella trattativa Clinton-Obama, ma soprattutto, come vi abbiamo raccontato in questa introduzione di oggi, il passo avanti principale lo si osserva se si analizza la squadra governo che Barack Obama sta mettendo in piedi. C'è qualcosa di suo, c'è qualche intuizione, c'è qualche novità, c'è qualche sorpresa, ma c'è soprattutto un poderoso, lo definirei ormai, ritorno in scena di quelli happy times, no? Dei tempi felici, almeno la memoria perlomeno li rende tali, i tempi felici secondo gli americani tra il 92 e il 2000, quando la coppia regnante portava il cognome di Clinton. Responsabili dietro questa scelta musicale, dall'altra parte del vetro ne vedo uno dei principali, insomma non credo che passerà sotto silenzio il fatto che siano stati resuscitati i Visage. Pensate un po', Steve Strange, forse Non, nessuno di voi, mi auguro, sappia più chi era Steve Strange, uno stranissimo personaggio con una pettinatura ancora più strana e delle spalline del tutto improponibili, che suonava questa elettronica di consumo, che rappresentò, a proposito di America in anni comunque non sospetti, qui siamo nei pieni 80, l'ennesima edizione di una invasione britannica degli Stati Uniti. Prima pagina. Gli unici autorizzati a entrare, no? Allora, vediamo le notizie cinesi, ed è da un po' di tempo anche qui a Jefferson Ming che ripetiamo che forse il motore dell'economia cinese comincia a dare qualche segno di cedimento, non si è ancora ingolfato, ma insomma ci sono dei segnali non proprio rassicuranti. E dunque la Cina ha annunciato una serie di misure in favore dell'occupazione, anche perché sono giorni di tensione, soprattutto nell'est e nel sud del paese, dove ci sono state numerose manifestazioni di protesta da parte di lavoratori che sono rimasti improvvisamente senza lavoro, soprattutto perché la polizia, come spesso capita dalle parti cinesi, ha usato un po' la mano pesante. E tra l'altro il ministro della sicurezza pubblica ha invitato la polizia ad andarci un po' piano, insomma, di essere cauta, forse veramente i tempi di Tiananmen sono davvero lontani. E a proposito di questi incentivi, di queste misure a favore dell'occupazione, il governo cinese ha appena annunciato che dovrebbero esserci in arrivo aumenti di indennità per chi verrà espropriato della casa per tanti altri motivi, come per esempio costruire nuove industrie, nuove fabbriche da parte del governo cinese, oppure verranno dati più sostanziosi aiuti ai lavoratori che resteranno senza lavoro. Tutto questo per cercare un po' di seguire la strada della società armoniosa, questo solco tracciato da Hu Jintao in un suo celebre discorso ormai di qualche tempo fa. I vostri messaggi arrivano, tra l'altro mi incuriosisce quello, caro Emiliano, quello di Vale, che dice: ora mi aspetto Al Gore, parlando di governo informazione alla Casa Bianca, ora mi aspetto Al Gore, ministro per l'ambiente. Beh, che voglio dire, è una considerazione tutt'altro che trascurabile quello che fa Vale. Poi quale sia la nostra reazione, perché da quella individuale non è significativa, all'idea di un Al Gore ministro per l'ambiente, insomma, mi piacerebbe sentirla per esempio dagli ascoltatori 349-238-6666. Io credo che una certa inquietudine serpeggerebbe. Altre volte abbiamo sollecitato il parere del pubblico. Io non mi aspetto sarei sorpreso un Al Gore ministro per l'ambiente, perché secondo me non è così meccanica la questione. Comunque volevo riportarvi semplicemente la notizia di come in America poi si campi anche di rimbalzo, se me la passate. Ieri vi raccontavo del libro Instant Book di Joe De Plummer, Joe l'idraulico. Oggi si parla invece del insperato successo televisivo della signorina Ashley Alexandra Dupree, caro Emiliano, di cui non posso mostrarti la foto perché il computer è girato da parte mia, è stata la signora che ha portato a fondo, ma direi non certo per responsabilità sua, lei stava solo lavorando, come si dice, il governatore dello Stato di New York, Elliot Spitzer. Insomma, era la prostituta che Spitzer che invitava a Washington, così assai pochino, devo dire. Adesso va in televisione in grandi interviste, c'è una magnifica foto al fianco di Diane Sawyer, la Maria De Filippi d'America, no? Questo è un po' pesante, no, insomma, una grande giornalista americana di società e politica che la intervista per capire che cosa ha da dire al paese. Lei un messaggio ce l'ha, in realtà, più che il paese, per la moglie del governatore Spitzer, a cui dice: mi dispiace tanto per il dolore che le ho procurato, signora. Ashley Alexandra. Allora, devo dare una notizia un po' più seria, mi stavo divertendo con le disavventure di Spitzer e di chi invece ci ha tratto ampi benefici. Allora, andiamo a seguire le tracce di Hu Jintao, che si trova da un po' di giorni ormai in Sud America. Questo mi permette anche di annunciare Luca Vinciguerra, il corrispondente da Shanghai, che più tardi ci renderà i dotti su che cosa sta facendo di veramente grosso, significativo il governo cinese, in particolare Hu Jintao in Sud America. Oggi c'è l'ultima tappa di questo lungo viaggio, che è culminato con l'incontro a Cuba con i due Castro, Fidel e Raul. È a Lima, quindi capitale del Perù, e c'è stato un importante accordo siglato di libero scambio con il Perù, molto importante perché questo permetterà a Pechino l'accesso alle materie prime, di cui peraltro il Perù è ricchissimo, come rame, zinco e acciaio, e in cambio le merci cinesi avranno basse tariffe di ingresso, quindi insomma in teoria dovrebbe essere contente entrambe le parti, sia il Perù che soprattutto gli imprenditori cinesi, che esporteranno più facilmente verso il Sud America. Bene, quindi Ugintao, in le avventure di Ugintao in Sud America con Luca Vinciguerra alle... completamente sotto traccia qui sui giornali italiani alle 40, è vero e beh, abbiamo le nostre commissioni a cui da presidiare. E invece tra pochi minuti un grande e gradito punto di domanda ritorno, Franklin Delano Roosevelt. La valigia sul letto è quella di un lungo viaggio, e tu senza dir niente hai trovato il coraggio. Con l'orgoglio ferito di chi poi si ribella, ma quando t'arrabbi sei ancora più bella. E così su due piedi io sarei liquidato, ma vittima sai tu bilancio sbagliato. Se un uomo tradisce a metà, per cinque minuti e non eri più qua. Ma se mi lasci non vale, se mi lasci non vale. Non ti sembra un po' caro il prezzo che adesso io sto per pagare? Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale. Dentro quella valigia tutto il nostro passato non ci può stare. Metti a posto ogni cosa e parliamone un po'. Io di errori ne ho fatti, di colpe ne ho, ma quello che conta tra il dire e il fare è saper andar via ma saper ritornare. Casa Bianca, il passaggio di consegne. Ladies and gentlemen, the President of the United States. My friends, I want to talk for a few minutes with the people of the United States about banking. Correva l'anno 1933 e Franklin Delano Roosevelt, appena insediato alla Casa Bianca, allora ci si andava quando ormai la primavera stava arrivando, ebbe una grande idea mediatica, quella di utilizzare l'ormai affermato media della radio, il medium della radio, per parlare agli americani, e farlo anche in toni confidenziali, non quelli ufficiali dei grandi discorsi, magari assumere addirittura dei toni vagamente didattici, comunque spiegare, argomentare le proprie scelte. E non a caso nella prima puntata di questo esperimento, che poi diventerà un grande successo, le famose conversazioni da caminetto del presidente Roosevelt, lui si mise a parlare di banche, perché il momento, si parla del 33, come sapete bene, era tutt'altro che ridente per l'economia americana, e conveniva spiegare ai cittadini che cosa si stava facendo, in quale direzione, con quali obiettivi, e il tutto farlo anche con chiarezza. Insomma, poi sono passati 75 anni, Barack Obama pochi giorni fa è diventato presidente degli Stati Uniti d'America, numero 44, e nei media americani, e poi per risonanza un po' in tutto il mondo, è lentamente ma poi sempre più rapidamente cominciata a salire una marea, no? Una specie di epidemia, una mania informativa, quella di connettere in modo poi sempre più chiaro, sempre più stringente. Poi hanno cominciato, insomma, sono cominciate a saltare fuori addirittura delle prove, no? Delle prove tangibili, di cui adesso magari accenneremo, a una connessione, a una imitazione, ispirazione, non so come meglio chiamarla, che da parte di Barack Obama guardava all'indietro, non tanto verso il modello che lui ha stracitato durante tutta la campagna elettorale, quella del sedicesimo presidente Abraham Lincoln, ma bensì proprio verso Franklin Delano Roosevelt, considerato un modello proprio per la sua capacità di saper stabilizzare, no, il capitalismo americano, renderlo meno selvaggio. Insomma, è uscita questa settimana una copertina di Times, così a coronamento di questo fenomeno mediatico, in cui Barack Obama è sistemato con un fotomontaggio nei panni di Franklin Delano Roosevelt, quando col cappello e il cappottone invernale a bordo della sua automobile salutava il popolo americano plaudente. Abbiamo chiamato Mario Del Pero, che è docente di storia degli Stati Uniti all'Università di Bologna. Prima di tutto lo salutiamo, lo ringraziamo. Mario, grazie di essere in trasmissione con noi. Buonasera agli ascoltatori. Ecco, per capire da un punto di vista autorevole e professionale se questo paragone regge, poi gli sottoporremo appunto questi testi a cui pare si debba far riferimento per suffragare il paragone, ma innanzitutto dal punto di vista delle ispirazioni, delle somiglianze, esistono? Che cosa ne pensa? Credo che ci possano essere, poi insomma è un gioco che noi storici facciamo, quello, certo, di cercare delle possibili analogie nel passato, non perché la storia si ripeta, ma perché la storia magari qualche piccola indicazione ce la può dare. Io la notte delle elezioni, quando il risultato fu chiaro, ricevetti un messaggio, un sms da un collega, da un amico, che mi disse: adesso bisognerà vedere se Obama sarà JFK o FDR, sarà cioè un presidente come Kennedy, che ispirò moltissimo una generazione, soprattutto di giovani, che fece sperare delle grandi trasformazioni del paese, ma che fece molto poco, e non solo per la sua prematura scomparsa, fu un presidente sostanzialmente passivo e conservatore, soprattutto sui temi sociali, o un presidente il cui impatto è stato significativo e duraturo, perché, come dire, l'architettura, quantomeno lo scheletro dello Stato sociale americano, per come esiste tuttora, è uno scheletro che andò costituendosi e strutturandosi durante il periodo di Franklin Delano Roosevelt. Quindi, come dire, le analogie ci sono possibili, sono analogie possibili, e l'azione di governo della prossima amministrazione Obama definirà se queste analogie possono essere credibilmente immaginate o definite oppure no. Ho capito, ma tra l'altro una mail arrivata qui in redazione su questo paragone propone una lontananza invece di Obama, Del Pero, da Roosevelt, e invita a ragionare sugli effetti che un nuovo New Deal e una nuova Bretton Woods rooseveltiana potrebbero avere al presente. Che cosa si può dire a questo riguardo? Il New Deal, soprattutto il New Deal e Bretton Woods, sono due momenti distinti, certo, della politica di Roosevelt, e rispondono a due filosofie e due, se vogliamo, anche esigenze distinte. La prima è un momento di riforme interne e di chiusura verso l'esterno, perché sono accompagnate da una fase protezionistica e da una fase anche di isolazionismo, forse l'unica vera fase di isolazionismo radicale nella storia degli Stati Uniti, anzi io credo, certo, l'unica vera fase di isolazionismo radicale nella storia degli Stati Uniti, la seconda metà degli anni 30. Bretton Woods invece fa parte di quella serie di riforme, di trasformazioni finalizzate a creare un ordine internazionale liberale, per quanto disciplinato e controllato. Quindi Bretton Woods esprime una proiezione mondiale degli Stati Uniti, il primo New Deal, se vogliamo semplificare, è un momento di ripiegamento e di chiusura. E però non mi concentrerei solo ed esclusivamente sulle riforme economiche, sulla necessità di dare risposta a una crisi, laddove volessimo immaginare un parallelo possibile tra Obama e Roosevelt, e proverei anche a ragionare sulle trasformazioni degli Stati Uniti e come queste trasformazioni si riflettono sulla mappa elettorale degli Stati Uniti, perché le elezioni del 1932 ridefinirono la geografia elettorale degli Stati Uniti, produssero quello che gli studiosi chiamano un riallineamento elettorale, forse il più grande riallineamento elettorale nella storia degli Stati Uniti, e diedero al Partito Democratico una solida maggioranza nel paese, con una coalizione molto eterogenea che includeva afroamericani e segregazionisti del Sud, tanto per intenderci, ma era una coalizione che su scala nazionale era maggioritaria. Ecco, la mappa elettorale di oggi potrebbe, il condizionale è d'obbligo, però potrebbe preludere a un riallineamento elettorale simile, potrebbe aprire un'era democratica. Oh, dunque, Del Piero, arrivano tra l'altro altri messaggi e a questo punto ci avviciniamo all'ultima questione che volevo sottoporre e che riguarda appunto alcune citazioni che sembra potrebbero essere individuate nei trascorsi, soprattutto culturali, formativi di Obama, ma c'è anche il messaggio di un nostro abituale ascoltatore, si chiama Massimo, che osserva: ma quale stabilizzare, ci scrive, dopo 2 anni la disoccupazione andò alle stelle, senza la seconda guerra mondiale Roosevelt sarebbe stato ricordato come il prolungatore della crisi, il suo modello era l'Italia del corporativismo fascista peraltro, e su questo tra l'altro è uscito anche di recente un libro piuttosto interessante che paragona i 3 New Deal, no? Si intitola proprio così, potete dare un'occhiata, quello tedesco, quello italiano e quello americano, ma la questione che volevo porre è questo: sembra, si dice, pare che nel giro ristretto che poi fa capo all'Università di Chicago, di cui naturalmente è stato docente, frequentatore e anche abitué Barack Obama, da molti anni circoli in un giro di docenti, soprattutto che fanno capo a istituti di legge, un sogno, un'utopia, un dibattito che non si è mai smorzato, che ruota attorno a questo noto Second Bill of Rights che Roosevelt avrebbe voluto diffondere nell'America verso la fine del suo mandato, ma che in un certo senso è rimasta utopia, non è riuscito mai a concretizzarsi, un Bill of Rights in cui si parlava tutto al positivo e non più al negativo, non veniva detto soltanto ciò che a un americano non era giusto negare, ma venivano indicate addirittura le opportunità che a un americano, un cittadino americano, andrebbero offerte, e che di questa lettura, di questi testi, di questa utopia si sarebbe abbeverato, nutrito insieme ai suoi amici Barack Obama. Ci crediamo? Poco. poco per un motivo molto semplice, che anche riferimento a quanto dicevo prima, comunque una componente segregazionista razzista era fondamentale dentro, certo, la maggioranza, certo, newdealista, tant'è che durante gli anni in cui FDR fu presidente si fece poco sul tema dei diritti civili, ad esempio non si riuscì a far approvare una legislazione federale anti-linciaggio, no? Certo. Che definisse il linciaggio un crimine federale e lo perseguitasse di conseguenza, certo. Quindi faccio fatica a credere questo. Se mi dai un minuto, volevo però rispondere alla considerazione, certo, di quell'ascoltatore, certo, su, sì, le analogie e le somiglianze col corporativismo fascista, certo, che è tema su cui gli studiosi si sono confrontati, ci sono più differenze che analogie. L'ascoltatore dice una cosa corretta quando dice fu la seconda guerra mondiale in buona sostanza a tirare fuori gli Stati Uniti dalle secche della recessione, certo, grandi investimenti pubblici, una condizione in cui però si riuscì a maturare il risparmio che poi sarebbe stato utilizzato per prolungare lo sviluppo nel dopoguerra, e tutto questo è vero, così come è vero che FDR agì in modo spesso improvvisato ed empirico. C'è un bel libro di Warren Kimball che si intitola The Juggler, il giocoliere, perché dice Kimball FDR buttava delle palline per aria e poi sperava che qualcosa succedesse, e però questo insieme non coordinato, confuso, di programmi pubblici qualche risultato lo sortì. Più di tutto diede da mangiare a milioni di americani sul breve periodo, che era anche uno dei problemi immediati con cui l'amministrazione Roosevelt si dovette confrontare e sulla quale ottenne sicuramente un successo. Non solo, ma introdusse degli elementi di welfare state particolarmente innovativi per gli Stati Uniti, penso al social security, al sistema previdenziale, che sono ancora lì, certo, e che sono diventati, come dire, elementi strutturali della società americana, tant'è che quando ci sono stati dei tentativi di privatizzare social security, l'America si è rivoltata contro, ne ha fatto le spese anche George Bush nel 2005. Va bene, molte grazie a Mario Del Piero che ci ha aiutato a dare il suo contributo alla interpretazione, anche a capire veramente chi sia quest'uomo destinato a guidare nei prossimi 4 anni l'America e quali siano le sue radici culturali. E poi si parlerà tra poco di Cina e Sud America. Cuba's president Raul Castro greeted his Chinese counterpart at Havana's Palace of the Revolution. This landmark visit saw President Hu Jintao sign a series of agreements boosting trade and investment, to a communist ally whose economy is struggling. E queste sono i suoni, sembrano un po' quelli veramente della radio di altri tempi, ma non so se poi lo fanno apposta, interrogativo da risolvere, perché parlando di Cuba si debbano sentire dei suoni di una fanfara intubata, ma comunque facciamo due chiacchiere con Luca Vinciguerra, il corrispondente dalla Cina del Sole 24 Ore, invece per capire, per approfondire, come diceva Emiliano poco fa giustamente, la notizia dalle parti nostre praticamente è stata taciuta. Caro Luca, qui dei viaggi in Sud America e di una apertura, non so se chiamarla di credito, comunque di contatto molto seria, svolta in questi giorni da Hu Jintao, da quelle parti, non se ne sa praticamente nulla, ma in realtà sembra un passo avanti in una strategia che poi passa per l'Africa, passa per il mondo intero, no? La Cina non pensa solo a chiacchierare, a conversare con gli Stati Uniti d'America, va cercando basi e interlocutori in giro per il pianeta, è così? Sì, è così. Ciao forse, Luca, innanzitutto. Sì, buonasera anche a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Ciao. È così, e forse la ragione per cui forse questa visita a Cuba, che peraltro ha seguito una visita il giorno prima in Costa Rica, e poi stamane Hu Jintao è arrivato in Perù, a Lima, dove poi peraltro parteciperà al vertice dell'APEC, uh-huh, i paesi dell'Asia Pacifico, forse appunto tutto sommato è un film già visto, nel senso che la Cina ormai è da almeno 3 anni che ha, diciamo, aperto questa nuova politica tutta proiettata sui paesi in via di sviluppo, sui paesi dell'emisfero sud, sui paesi che in qualche modo possono garantirle un approvvigionamento preferenziale di energia e di materie prime. Questa, come dicevi tu, è una politica che in questi giorni vediamo dispiegarsi appunto in America Latina, ma che ha avuto una sua, diciamo, un suo sviluppo importante soprattutto in Africa. Vorrei ricordare appunto un anno e mezzo, 2 anni fa esatti, 70 capi di Stato africani vennero a Pechino, certo, per partecipare a questo summit straordinario mai fatto prima tra la Cina e l'Africa. A cui seguì poi un lungo viaggio, no, particolareggiato, tappa tappa di Hu Jintao, se non sbaglio, in Africa, di paese in paese, rafforzando, sì, no, i rapporti, vero? Sì, Hu Jintao ne ha fatti diversi di viaggi, poi ricordiamo che li fa anche Wen Jiabao. Certo. Qui diciamo il capo di Stato è Hu Jintao, ma Wen Jiabao, che è il primo ministro, è il secondo nella gerarchia ed è un personaggio direi quasi altrettanto importante, quindi i viaggi li fanno in due, e direi che probabilmente loro in questi ultimi 5 anni credo che abbiano coperto tutti gli stati africani eccetto quei pochi che ancora riconoscono Taiwan. Ma per aiutare a capire perché i vertici, i massimi vertici cinesi a un certo punto vanno a cercare, vanno a rafforzare, vanno a innaffiare, insomma, queste relazioni con paesi che, guardando all'emisfero occidentale, hanno un ruolo particolare, in certi casi anche piuttosto apertamente provocatorio, nella fattispecie la vecchia Cuba del vecchio Fidel, ma anche alcuni paesi del Sud America che sono tutt'altro allineati, per esempio, con le posizioni americane. Vogliamo dire che è al tempo stesso sicuramente un rafforzamento di relazioni economiche, di forniture e quant'altro, ma anche un posizionamento diversificato nello scenario politico, no? Ma, diciamo che c'è una cosa importante che dobbiamo tenere conto, che molti di questi sono paesi amici della Cina fin dai tempi di Mao. Certo, Cuba in particolare, vabbè, certo, un paese comunista come almeno formalmente ancora la Cina, e quindi è un caso assolutamente emblematico. Ma direi che poi la cosa importante è che la Cina parla a questi paesi un linguaggio comune, che è quello, certo, dei paesi in via di sviluppo, quello della conferenza di Bandung, insomma, e questo è il vero punto di contatto che i cinesi hanno con questi paesi e che l'Occidente invece non è più riuscito ad avere. La Cina è stata intelligentissima sotto dal punto di vista politico, in questa operazione politica, di andare a colmare un vuoto che è stato lasciato soprattutto dagli Stati Uniti certo, dopo la tragedia somala, insomma, per almeno una decina d'anni gli Stati Uniti sono completamente progressivamente scomparsi dall'Africa, certo. I cinesi sono andati a occupare questo vuoto, peraltro, ripeto, parlando un linguaggio molto più vicino ai leader africani, quello di un altro paese comunque del terzo, diciamo, in via di sviluppo, e soprattutto offrendo delle cose molto concrete, in particolare assistenza finanziaria, assistenza sanitaria, assistenza militare, armamenti, perché c'è anche tutta questa parte qua, in cambio appunto di materie prime. Io, se vado a memoria, mi pare che il 40% del petrolio del Sudan venga acquistato dalla Cina, quindi parliamo di quasi la metà di tutto il petrolio estratto. E questa è una cosa che è stata fatta non solo in Africa, ma anche in America Latina, in Cile, in Perù, in Bolivia, e anche nei paesi del sud-est asiatico. Cioè, la Cina ha ottimi rapporti con l'Indonesia, con le Filippine, anche se possono esserci magari anche dei motivi delle piccole ragioni di frizione politica locali, isolette, contese o cose del genere, ma ha dato un colpo di spugna su questo per andare appunto per badare al sodo. Va bene, grazie a Luca Vinciguerra che ci ha aiutato a capire meglio, insomma, come il Sud America assieme all'Africa resta il continente nel quale la Cina è più attiva, e adesso che noi qui di Cina siamo abituati a leggere soprattutto articoli che parlano di una crisi incombente, sempre più ravvicinata, sempre più calda, sempre più pericolosa, evidentemente sta, secondo le proprie strategie, le proprie consolidate alleanze, cominciando a mettere in opera i necessari, non le necessarie operazioni di rimedio e di recupero. Anche oggi abbiamo girato il mondo, fatto anche quattro passi per la storia americana e poi siamo passati in Sud America e in Cina. Ora è ora di chiudere la puntata di Jeff Summing. Io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Emiliano Enrico, in regia a Roma Alessandro Chiappini, a Milano Filippo Aureggi. L'indirizzo, come sempre, Jeff Summing è radio24.it. continuate a scriverci, teniamo conto anche nei giorni successivi delle vostre mail, ogni tanto ne tiriamo fuori qualcuna del cassetto attinente a tematiche che magari erano in lista d'attesa. Questa puntata va in replica stasera alle 9. L'appuntamento, come sempre, domani alle 4 qui su Radio 24. Risentirci.